Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, anche oggi ripartiamo dal tema Siria. Avete sentito incontro in corso a Bruxelles, naturalmente le operazioni militari, se ne parlerà anche tra 24 ore di fatto a San Pietroburgo, dove è previsto il G20. In Europa si parla soprattutto ora della crisi dei profughi, ne sono arrivati 700.000 in Libano, 500.000 nei paesi limitrofe. Nelle ore passate il commissario UE per la cooperazione internazionale e gli aiuti umanitari, Kristalina Georgieva, ha lanciato un appello. Alla sua voce si unisce quella di Laurence Joll, delegato dell'Alto Commissariato per i Rifugiati per il Sud dell'Europa. Sentiamolo al microfono di Cinzia Caserio. Il commissario Georgieva ha detto giusto, prima di tutto c'è bisogno di una maggiore solidarietà, c'è bisogno ancora di fondi che devono arrivare, solo una parte dei fondi che abbiamo richiesto è stata ricevuta, quindi c'è bisogno ancora di più e tutti possiamo fare qualcosa, sia i governi sia i singoli cittadini. L'alto commissario ha parlato di una grandissima tragedia, una vergognosa calamità umanitaria con livello di sofferenze e esodi mai registrati nella storia più recente. E diciamo che, come anche ha detto l'alto commissario, l'unico conforto è rappresentato dall'umanità dimostrata soprattutto dai paesi confinanti nel continuare ad accogliere e salvare la vita di così tanti rifugiati. Questo è importantissimo e questo è uno sforzo che bisogna continuare a sostenere. Ecco, nel frattempo, proprio questa mattina sono stati rilasciati i dati sui costi dell'intervento a sostegno dei profughi. Dal 2011, scrive la Commissione, sono stati investiti 515 milioni di euro in aiuto umanitario diretto, 328 milioni di aiuti umanitari indiretti, a cui si aggiungono gli interventi dei singoli stati, in particolare l'Italia, ma anche la Francia, la Svezia, la Slovacchia, la Norvegia. Ecco dunque un grande sforzo che ora probabilmente entra in una fase critica. Cambiamo tema, wifi gratuito, startup, così queste alcune delle parole d'ordine del bando che la Commissione europea ha lanciato per la ricerca della prima capitale dell'innovazione in Europa. Valentina Innocente ha chiesto lumi a Giuseppe Ruotolo della Direzione Generale Ricerca alla Commissione europea. Prima di tutto, quali sono i requisiti necessari per partecipare? Per il momento per questo bando ci siamo limitati a cercare città con una popolazione di almeno 100.000 abitanti e per premiare una iniziativa, o meglio una strategia, che abbracci l'intero rete, insomma, del mondo dell'innovazione in ambito urbano. Quindi nel momento in cui noi valutiamo quello che è stato fatto e poi l'impegno della città a proseguire per il futuro, il bando prevede anche 500.000 euro per aiutare la città a incrementare e a espandere le possibilità di successo di questa strategia. Ecco i requisiti. Quello che si cerca è proprio di mostrare l'impegno della città a cambiare in favore dei propri cittadini con qualcosa che proprio abbia una valenza trasversale a tutte le dinamiche, quindi non più soltanto legata alla parte per esempio ambientale, piuttosto che trasporti, piuttosto che logistica, ma una serie di iniziative che abbracciano tutte queste dimensioni. Intanto notizie economiche. L'eurozona è fuori dalla recessione, ma il processo di superamento degli squilibri rimane incompleto. Nei paesi con un alto debito pubblico, la debolezza della domanda interna è stata compensata solo in parte da maggiori esportazioni verso i mercati esteri. Quanto scrivono gli esperti dell'OCSE nella valutazione a interim dell'economia globale pubblicata oggi a Parigi. E infine parliamo di Balcani, una valutazione positiva del profondo rimpasto al quale è stato sottoposto il governo di Belgrado è venuta da Jelko Kacin, relatore per la Serbia al Parlamento europeo, secondo il quale ora la cosa più importante è intensificare la riforma della giustizia e andare avanti nella lotta alla corruzione e alla criminalità. Bene, con questa notizia è tutto per Europa 24, che ritrovate come di consueto sul nostro sito web, naturalmente radio24.it, e ritrovate domani alla stessa ora. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.